pensavo che eri trombista. Ore! Ehi, Giovanni! Ehi, pensavo che eri trombista. No, stavo parlando con un altro anello. Cazzo, dammi l'attacco a famiglia, non ti molla più. E vabbè, no, che torre, beh. E mi sembra che sia la torre, torre! Sto pagazione, c'è luce. No, oh, non sento nulla io. E per tu c'è grazie in ricezione, rispetto. Io non rispetto, adesso c'è un parappella di corretto e basta. Antenna, vi voglio, Mari, vi voglio Luisa, va. Lo so. Però tutto lo posso avere, per adesso va bene così. Vuol dire fin là che tutto fa brodo. Piano piano, dai, piano piano. Io già ce l'ho attaccato all'albero delle pere. A me le sue pere sono già pulite. Sono le pere che parlano. Allora Marco, quando rinnaffio poco poco, sacca l'antenna un poco. Infatti le spere che parlano per il cacchio, e tu non fa cacchio, ma io sento un po' da rietta, ma appena va così che ancora si sta bene, dai, magari più là che scalda di più ancora, capito? No che è già cacchetti lì usori. Eia dai, così, e senti. Fate 31? A licenzia, gioia. E da Nintendo's. Arrivano sparati, arrivano, ragazzi. Anche con gomino arrivano, ragazzi. Ma 4.31 è già male. 4.31 è. 4.31. No. Ah, 4.31, 236. Forse arrivano, arrivano forse. Ma loro già arrivano forse, per forza, già, saranno più forti. Noi siamo piccolini, loro sono grandi. Andare. Ma tu non ti ascolta, non ce l'hai? No, non ti ascolta, no, Giovanni, che ce lo dice, diciamo, la frequenza, boh. Quello che è rompe, capito? È quello che rompe. Vabbè, dai, tanto... vabbè, non si perde niente, Manuele, non si perde niente. Cazzo, voi fate lì e fare lì. Ma, tanto no... Cosa fa vita nel traete, boh. Chiaro, come ti arrivo, con che apparecchio esci, dove ti trovi, chi sei, come ti chiami, dai, è tutto lì. Cazzo, 9.20 arrivi di notte. Quanto? 9.20. Arrivo da fortissimo, cazzo, ma allora stanno i conti, capito? Aspetta che stanno suonando la porta, Gio Mario. Giovanni, tu io, mamma mia, tutto combo sono con camminetti, basta non pensarvi, no, ti parlo che cosa mania, dopo mi sdraio un po', cazzo, non me la posso, io mi auguro che mi baci qualcosa. Siamo mani, ti sdrai, ti rilassi, e tu, cosa devi fare? E diversamente non puoi fare niente. Non puoi fare nulla, no. Adesso, Giovanni, ti metto l'altro, a vedere come mi ascolti, di modulazione. E io attacco l'altro. Ciao Mari! Eia! Pensavo che non avessi io! Lascio chi non vi va, aspetta! Fai un passaggio più lungo! Bene, un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, mi sembra più incisiva, È più incisiva l'altra! Vabbè, l'altra è la Galaxy. Ah, qui era il Galaxy, così è. Prima era il Galaxy. Galaxy era più piccola, capito? Anche questa non è male, no? Va bene anche questa. Provo a mettere la portante. E a fondo scala, sì, già. E cazzo, ci siamo attaccati. Mi sta incollando tutto. C'eravano qua, cazzo. Attaccati, perché quando... Infatti io ce l'ho attenuato. Quando parli tu è attenuato. Non ce l'ho aperto tutto, capito? Già è normale, no? Sennò... Ma è tutto quando se non l'attenue magari le cose si fianco male, capito? Ma comunque ce l'hai, ce va bene. Però preferisco usare la Galaxy. Sì, sì, sembra più forte, dai. Ma questo sempre dovrebbe spingere con me. Prova ad attaccare il processore. Questo processore non ne ha, Giovanni. Questo qui è il 7000. Ah, non ne ha processore. Questo qui il processore va solo in banda laterale, già. Va in automatico, in banda laterale. In AM non ne ha. Ah, così. Non me lo so dato, Io penso che potevi distaccare e attaccare manualmente. Questo è... Sono in banda, già è automatico, va. È il 706 che sta usando tutto il trattino. Auto, buonasera. Cos'è questo? Si sta usando tutto a trattini qua. E chi, io? No. Manuele. Come? Prova a fare un passaggio al settore di 73. Attratti, mi intendo attratti. Avanno, ma ancora oggi. Ma se sapisca la radio. Ma tattaria, che dicendo attratti. Ascolto proprio, attratti. Ma attratti mi sentivi, Giovanni? Sono vicino io, invece ho detto perfetto. E la te dovrebbe arrivare anche più perfetta la radio, più lontano. Adesso sì, ma poco fa stavo uscendo a tratti, Qualche cosa deve essere che non funzionava bene. Forse c'avevo lo squash mezzo inserito, so. Vabbè, ma lo squash era solo per ascoltare, no, per farvi danno. Sicuramente c'era qualche cosa che io stavo allenando. Poi l'ho sentito perfetto, è strano che tu lo senti, l'ho sentito a tratti. Io a tratti non l'ho sentito nulla, per niente. A tratti mi sente ancora. Vediamo un po' se mi sente a tratti. Pare strano a me. Adesso sì, che stai uscendo a tratti, è cambiato parecchio. Giovanni, a tratti mi senti. Vedi un po' se mi sente a tratti. Oh no, allora va problemi estero lì. No, non c'ho problemi io, cioè problemi tu. Gian Maria lì, se è vicino a te non te lo sento, però io che sono più lontano te lo sento. Ah, se è Gian Maria che mi dovrebbe sentire, lo dovrebbe notare di più, cazzo, è vicino a me, lo dovrebbe notare di più lui. No, cosa stai usando adesso? Adesso sto usando il 7000, ma le prossime sto uscendo bene io, non sto uscendo a tratti. Se ti dico che stai uscendo... Giomari. Non dirlo a Giomaria che è vicino ti sente bene. Però in lontananza, ti ascolto tutto a tratti, come un cosa che non stai uscendo per te. Aspetta un attimo, vediamo una cosa. Adesso come mi ascolti? No, stai uscendo sempre, sempre come ranchiare, Mi senti gracchiare, Giammaria? Oh, io mi sento perfetto. Che cazzo mi senti gracchiare? Allora va a problemi ma faccio problemi io di così. La modulazione non è... Poco fa, quando sei uscito dal gare, si sta dicendo perfetto. Con chi sono sei semi perfetti? Non so cosa dirti, Otto. Scusa il gara, giusto? Oh, no, lo so. Io lo sento bene, là. Ma se vicino non lo sento bene. Lo strappato le mie. Infatti, tu dovresti essere più perfetta la radio, non so. Però se sono in casa dovrebbe arrivare perfettamente. Allora io sono in particolare qua, e sopra che ci avevo io che adesso l'ho fatto, allora a certi vicino li sentivo perfetti, ma a Claudio, Claudio e Cosio, e Alessio mi sentivo un po' strano, bla bla bla bla bla bla. Ah, dai. E infatti dicevo, ma è strano, come mai li sentivo? Ma era dall'apparecchio mio, capito? Perché accendevo un altro e si va bene, quell'apparecchio faceva lo stesso. No, oh, ma io con il gara ce lo sento perfetto, con quello lì lo sento tutto a coso, spezzettata la voce. Io lo sentivo perfetto, l'ho sentito perfetto, io lo sentivo perfetto, poi dalla ricezione da una pagina a parte cambia e cambia molto, certo, non sono i più precisi le ricezioni. Dall'apparecchio all'altro c'è una differenza, capisci? Lo so che c'è una differenza, infatti gli accessori quando tratta il gas è fortissimo, quando è conchiuso si sente tutto, sicuramente vuole regolata qualche cosa, vuole regolata, ecco cosa è, quindi io lo ah, sì, vabbè. Perché si sente così. No, il lontano non lo senti, ecco cosa è. Ma comunque, voi non avevo credito, io il figlio del telefono del registro te lo può sentire. Riferisco a Berlusconi per la situazione. No, lo so, ma tra uno e l'altro la differenza c'è lo stesso oppure no? Sono marito. Col gara c'è tutta un'altra cosa diversa, è alto anche di volume di coso, mi tocca abbassare. Con quello lì invece tutto gracchiante lo sento basso. Fa di nuovo, Emanuele, aiuto. Sì, aspetta un attimo che stanno suonando la porta, riprendete voi. Sì, già parliamo lui. Però se parlo molto non so più fame dopo, capito? Avanti tu. Ti basta l'appetito. Andiamo, vai, andiamo. Gio Mario, quando va a vedere col gara se bisogna di abbassare. A chi? Quando va a vedere tu, non è dove tocca abbassare. Oh, ma io faccio la stessa cosa. Faccio la stessa cosa. Si rovescia tutto. Non va a premessi, si rovescia. Si può immaginare sia con uno sia con l'altro, ma con questo ultimo che stava parlando, con questo è fortissima la radio, deve abbassare quasi a zero, e per ascoltare a te devo sollevare quasi al massimo. Perché c'è, a lui ce l'hai vicino, ce l'hai, e quindi è per quello che fa così. Se lui l'abbassasse un po', dice che ce l'ha a 4, che poi dirà sì, ecco cosa è. Perché ho notato un particolare, no? Ho notato, quando si attacca, si mette all'899, è fortissimo, fortissimo, tocca abbassare. Se tu parli, dopo no, parli tu, devo aumentare il volume. Perché tu sai, una modulazione basta, poi. Lo so, la voce mia è così. Purtroppo, non posso aumentare nulla io i nomi. Aumenta, aumenta, attorno, aumenta, metti in pastiglia a tutto andare. Sì, pastiglia ti metto. A te ti credi che è tornato così, no, che appunto la pastiglia. Vabbè, in farmacia, e la farmacia è troppo cara, meglio non andare, finire, lo so. Infatti siete già abituati a baciarla, lasciarla a 4 invece che a 5. È a 4, io non sono venuto a baciare, sono piccolo, ho l'antenna sotto la pianta delle pere. E state parlando le pere, forse fanno quella radio così, le pere che ci sono. Quelle pere a regina. Ma se pensa di bene si sono occulti, oh Gio Maria. Quella è buona, Io ne ho tre altri di quella lì, Però tutti frati, che c'erano si può passare che hanno su di me. Scappati, cucendo e guattendo. Prima adesso voglio bere che era un bombo. Ah vai, di un minuto a chi ne vuole troppo e si guattano. Infatti le cucine. Le cucine, buono, un bel, a mano che cucine ne fara. Bisogna vannire, subito bisogna vannire. Per carità. Comunque quelle affere sono buone, Sono buone perché se le ho, preciso a quelle di Emanuele. Però bisogna non le mangiare. Tu si fa una tipo una limoninca. Cazzo, però poi tutti la punta, è la piena là giù. Non l'hanno fatto a chi? Gli era fare dalla cara, la tagli di lui. No, già li abbiamo fatte, Gio Maria. Oh, fatti la sì. Cazzo, è proprio di Monica buona, cazzo. Cazzo, io fino a un bel viaggio. Gli hanno carregato, nessuno l'ha carregato. Però era, quest'anno erano più piccoli. Ma non bastava, era più poco, quindi era, ma era matura, che stai dicendo, stato che ne era un bel e ne ha fatto diminuta. Adesso basta, mi ascolti, tu? No, ho già abbassato il volume. Anche io ho abbassato il volume, dai. Purtroppo così. Purtroppo da un all'altro cambia la ricezione, hai visto? Bisogna abbassare, cambio, vedo un altro, cambio, vedo un altro, abbasso, e cosa puoi fare? È importante che sia la radio che ti comprendi, dai. Infatti, Gucci, scusate che ci comprendi, e che ci accorgi, purtroppo andiamo bene così. Sì, adesso anche non più così sto, vedrai che dopo ci sarai come se Emanuele. No, non sono preoccupato per quello, purtroppo. Ando cucinando. Così almeno non mi assarieggi. Bravo, ben detto. Ma mi vuoi raccontare una cosa, Gucci? Io già non mi preoccupo, già mi puoi sentire in sé. Già non mi puoi sentire in Russia. L'importante è che alcuni mi sentia. E infatti, già mi vuoi sentire in sé. Se no... Tu già imparerai a parecchio. Non mi preoccupo così. A me la potenza non mi piace, mai piaciuta. Mai. Io faccio sempre la potenza bassa. Sempre a me. 4, massimo 5 bassa, non di più. Non mi mai avevo la possibilità di aumentare, ma non l'aumentavo perché non mi piace la potenza. L'importante è che si abbassa la radio, che si appunta, boh! Che piace, boh! Lei non piace le mie cazzi, là! Buona cosa, a cosa, se no, pazienza, andiamo bene così, andiamo, se no si giamba la radio. Andiamo meglio così, andiamo bene così. Sei all'inizio da tutto, devo passare, e va bene, con la mano, e forse per quello, devo passare per forza, perché mi fa sordo. Perché c'è anche vicino, ce l'hai, ecco cosa è, che ce l'hai vicino, è più, vedo che ha congiurato, e va a baciarci. Perché lui c'ha la voce... penetrante, forte, capito? sembra parlando basso, ma è, parla basso, ma c'ha la voce così, per estrante, capito? Come qualche primo altro, capito? Abbassa, abbassa, non fa, c'è il timbro di radio così, capito? Sì, cioè, gli acuti troppo alti, bisogna abbassarli. Era male che quando parlo io devi aumentare il volume, sennò non mi senti troppo. No, io ce l'ho regolato giusto, ce l'ho regolato. Quando va a vedere, ascolto così. Devo abbassare e aumentare, abbassare e aumentare. Purtroppo, è anche lui che c'ha gli acuti alti. Giovanni, aspetta un attimo. Assaggiate il spaghetti, se sto cotti è pronto. Infatti, assaggiate gli spaghetti, assaggiate. Comune, se giusto l'hai tu. Te l'ho portato in paese, gliel'ho portato. E quando oggi? No, martedì gliel'ho portato in paese, ho mangiato lì, è tutto campo. Ma lontano? Ala dei Sardi. Che cazzo? Vabbè, non l'ho fatto finire lui a portarlo lì. Non c'aveva il gancio traino, mi ha detto, e quindi se ha fatto il piacere se glielo portavo là. Ha arrivato il viaggio di sì, per la giovane Riccardo. Almeno si è accorto, almeno c'è la scatola, tanto non lo stai usando, perché sei tranquillo. Sì, ero grigio, proprio tranquillo. Allora che l'hai venduto, che so che riesci da vendendo. Sì, come faccio io, prima la bicicletta, mi ero via le carte e non la usavo. Da voi il motorino, meno male ti ho buttato fuori anche il motorino. Oh, non è sembrato vero, te lo vedi camminando, è un gioiello il motorino, certo. Io no, né bicicletta né motorino, ma tutto, non è per me, da. Ti prendo una bella radio adesso e viaggi che è una meraviglia, to. Cosa è? Ho detto, ti prendo una bella radio e poi viaggi come una meraviglia. Sì. Ma va, rimane il gallo guzzo. Giomari, mi ascolti bene adesso? Beh, la radio rimane più cauta, va. Prima ci sentivo molto più forte, adesso ci sento perfetto, Non è né forte né bassa, perfetta. Adesso sto usando un portatile con antenna in gomma, ma sicuramente Tore non mi sentirà adesso. No, prima ti intendo. No, non forte come quello là, ma già ti sento bene. Bene, e cazzo, allora sto usando un portatile. Con l'antenna giù, a balone. Sì, stai arrivando bene qua, stai arrivando. Andava Giomari, funge bene, dai. Vanno bene, siamo vicini. Siamo vicini. Non è come il CMR, capito? Secondo me se non si sentono. CMR, mentre invece la 27 ti sento, certo, anche i portatili vanno bene, e poi hai visto, certo, Tonino come si è forte quel portatilino, certo, è un bombo. Vabbè, in PMR sì, Giomari, in PMR sì, ma in 27 non penso che arrivi in occhi con un portatile. Io non ne ho portatili in 27, se no avrei provato. Stavo per prendermi, ma non vale la pena, capito? 132 euro, non saranno, cosa ne dici? Non ne vale la pena, cosa dicevi? Dicevi a nulla, a meno che non lo devi trattare, che vai fuori e coso. Allora sì, ma no, non ne vale la pena buttarci soldi così. Infatti, non l'ho preso per quello, non lo prenderò. Li ha avuti tanti contatti, però non meglio un baracchino così, certo, un cinque sei tranquillo, hai che ha un sacco in mano, mi rompe, tutto lì. Dai Emanuele, canta. Infatti no, cazzo. se 130 euro per un portatile non ne vale la pena, no. Magari trovandolo usato, seminuovo, con 25 euro lo trovi. Si può anche buttare via 25 euro per un portatile, però a prenderlo, a pagarlo 130 euro non ci penso neanche. Adesso mi ascolti bene tu, allora, dai, perfetto, dai. E niente, sono le 12.30, fra un po' vado a preparare qualcosa da mangiare, un po' di spaghetti con cose, gamberetti e via andare. Hai sentito? Io te lo faccio già bel puro, no, hai compreso? Ma vi abbassate che andiamo a mangiare, anche tu pure mangi. Eh beh, cazzo, io sono magrurino, devo avere un po' di carburazione. Sì, la massa te ne varia, magrurino, dice che Gian Maria. Faccio tre volte di me. La fantasia glielo fa dire quelle parole, capisci? Arriva. Era male la sua faccia, la barba, che proprio era uscito in Maria 1, un disastore Maria. Questa è bella, eh? A me non mi rovrei fondimmo. La barba ma ci ho fatto, si vede a Giuronga, Gio Maria, non mi dico che la vai barbata. Oh, guarda che non me la metto, che sta giustissima, ancora sta giustissima, non me la metto più. Ah, ce l'ho tracciata, ma non me l'ho tagliata la barba. E beh, allora ha ragione, che non è, caravano è loco come ce la tagli. No, l'ho tracciata solo sotto e basta. Che devo fare un film di Zorro a giorni, vai di to. Solo Zorro mi manca. La fuga del cavallo morto deve girare, to. Deve girare un film, la fuga del cavallo morto. Deve andare a cavallo a piedi. Un cavallo con i bili. Oh, Tore! Adesso che no, già ti gioca a cucce. Ma lì da te il segnale com'è? 9 qualcosa. 9? Prova a vedere. Andava. Non sapevo prendere, cazzo di batti per due, cazzo. Va bene. Cazzo, io arriverò 3 o 4, vero Tò? Allora, ne ho tolto l'attenuatore e mi arrivi 9.20, quasi 9.30. E Gio Maria è 9.30. Oh, Manuel, datti da fare, cazzo. Con la testa di gomma, cazzo, aiuto. Aspetta un attimo, aspetta. Allora, vediamo un po' una cosa, vediamo un po'. Te lo dico subito. Allora, vedo un po' se cambia qualcosa. Vedi adesso se cambia qualcosa. Prova a vedere. Ah, penso settore. Ma cosa stai usando, il portatile o l'altro? Il portatile, com'è adesso? Adesso è 9.20. Ancora 9.20? Sì, ma non vedete c'è aumentato di più. Il segnale è quello e quello rimane. Sì, dai, va bene così. Allora, ciao, capito, dopo veniamo a mangiare. Grazie alla chiacchierata, buon pranzo a tutti e due. Ci sentiamo stasera, Manuel, so. In previsura io chiudo. Buon appetito, Sì, ok, ciao Gian Maria, ci sentiamo. Buon appetito anche a te. Andave, vai Emanuele. Mi stacco anche io che devo preparare anche io da mangiare, dai. Buon pranzo a tutti, dai. Ciao a Tore, ciao Gio Maria. Ci sentiamo stasera in casa, dai. Sì, ok, ciao Emanuele. Ci sentiamo stasera, sì, ciao.